Zolt. Fulminati in azienda. Allora, Paragone, tu che sei il mio consulente oggi mi devi stupire, mi devi illuminare. Io voglio sapere come fare a tirar fuori dai miei manager almeno un'idea, una. Bisognerebbe trovare un modo per far venire loro in mente un'idea, almeno una che sia veramente innovativa. Bravo, ma vedi che c'hai sempre la soluzione tu. Bisogna trovare un modo per fargli venire delle idee. Scusa Marco. Scusa, ma cosa? Ma cosa dici di coinvolgere tutti i dipendenti in un sistema di premi e incentivi? Ma cosa stai dicendo, Schedula? Devo pagare la gente per avere delle idee. Ma le persone sono pagate per lavorare, non per avere idee. Dico bene o no, consulente? Dico che i collaboratori devono lavorare piuttosto che avere idee. Bravo, mi capisci. Allora perché non facciamo una bella iniziativa dedicata al management, dove inseminiamo una nuova cultura, smantelliamo le ortodossie e stimoliamo l'innovazione? Tutto qui, e tu pensi che così facendo i manager tireranno fuori un'idea, almeno una, da applicare subito e da far guadagnare l'azienda? Ma tu hai capito o no, cara la mia Schedula, che qui conta solo il fatturato? Se permettete, potremmo fare una iniziativa dove applicare il metodo Kaizen, il metodo più in voga. Ma certo, facciamo un Kaizen, dai Marco, facciamo un Kaizen! Per piacere, ma voi credete ancora che facendo qualche lavoro di gruppo le persone mi si trasformino in geni e tirino fuori le idee? I risultati di questa nuova metodologia sono veramente sorprendenti. Non lo so, stavolta sono perplesso. La domanda è, ma questo metodo funziona veramente? Kaizen? Allora, benvenuti in questa prima sessione di Kaizen, un metodo per tirare fuori idee da zucche vuote. Ma che fa? Sta offendendo. Ma dai, non ti mettere sta offendendo di traverso. In questa prima parte di corso noi dobbiamo destroy le nostre convinzioni più profonde. Dite tutti con me: io non sono figo, io sono mediocre. Ma perché lo dobbiamo dire? Io non sono figo. Non va bene, sono più convinti. 1, 2, 3. Io non sono figo, io sono mediocre. Benissimo, wow. Ora che ci siamo liberati free dalle nostre convinzioni, siamo pronti per aprire la mente alle idee. Ecco a voi centinaia di bigliettini di tutti i colori: gialli, verdi, fucsi. Oh, che bello, io voglio quelli color brugna. Io li voglio tutti. Un'altra volta sta cosa dei bigliettini, l'avevamo fatta 100 volte. Ma c'entri, ma questo è il metodo Kaizen, è veramente innovativo. Bene, c'entri, cominciamo da te. La prima cosa che ti viene in mente, scrivila sul bigliettino. Mi dovete scusare, ma a me viene in mente pesce stocco che ha la peperonata. Ma che volgarità, pensa poi che processo digestivo letale. Capito, li ho mangiati ieri, io sono buoni. Va bene, di cosa nasce cosa. Adesso, partendo da questo bigliettino di centri, scrivete i vostri e poi a catena finché non si finiscono tutti i bigliettini. È bello, questo sarebbe il Kaizen, ma se l'avevamo fatto con l'animatrice alla festa di mio nipote Gigetto, ha fatto 7 anni. Allora, ho indetto questa riunione perché voglio finalmente raccogliere le idee emerse dai gruppi di lavoro del Kaizen, anzi, l'idea, perché a dir la verità ne basterebbe una. Kaizen, Marco, Kaizen. Sì, vabbè, non star qui a fare i dettagli. Dai, allora, com'è andata? Bellissimo, ci siamo scoperti dei veri innovatori, una parte oscura di noi finalmente emersa. Proprio ci siamo manifestati. Ecco, mi fa piacere, ma l'idea qual è? E poi quei foglietti, tutti colorati, così divertenti. Ho capito che vi siete divertiti, ma l'idea qual è? Tante idee irreali, fantasiose, astruse. Ho capito, tantissime. Ma l'idea qual è? Idea di praticabile mi pare niente. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t.